9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, questo venerdì 30 luglio, come avevamo immaginato quando ci occupammo settimane fa di l'attrito crescente tra Fini e i suoi seguaci e Berlusconi e il resto del vertice del PDL, e ci chiedemmo all'epoca se fosse logoramento o se fosse qualche cosa di più, e diciamo dopo lunga usura siamo arrivati alla rottura ieri sera. Però sull'interpretazione di questa rottura, cioè sul documento votato dall'ufficio di presidenza del PDL, che è un documento che emette una scomunica nei confronti del presidente della Camera, gli leva la fiducia, gli chiede praticamente di abbandonare il seggio a Montecitorio, e contestualmente al deferimento ai probiviri dei parlamentari finiani Italo Bocchino, Fabio Granata e Carmelo Berguglio, a questo punto si tratta di capire questo colpo di grazia, come lo chiama nel suo titolo di apertura il giornale diretto da Vittorio Feltri, che conseguenze avrà, perché sembra nelle prime ore successive alla rottura, dopo gli ultimi tentativi di conciliazione, avete visto che Fini il giorno prima, evidentemente manifestando che la sua intenzione era quella di procedere lunghi mesi all'usura, non alla rottura, aveva offerto una tregua, una pace, capendo che invece Berlusconi stava spingendo al passo decisivo di rottura. Bisognerà vedere quanti ne seguiranno, e se dal centrodestra sembrava che i parlamentari a seguire Fini dovessero essere di numero non troppo elevato, ieri invece le prime cifre che circolavano erano cifre superiori quasi alle attese, perché parlavano per esempio di ben 34 deputati che si riconoscono nelle posizioni dell'onorevole Fini, malgrado il documento votato dall'ufficio di presidenza del PDL. 34 deputati sono tanti, perché rispetto alla maggioranza di 316 necessaria perché la maggioranza di centrodestra resti a poter sostenere il governo Berlusconi a Montecitorio, rispetto ai 344 seggi che ha il centrodestra dopo le elezioni del 2008, se ne levate 34 a 344 e la somma restante fa 310, quindi vuol dire che non c'è la maggioranza neanche alla Camera. Al Senato il margine è ancora più ristretto, lo ricordo, perché al Senato i seggi guadagnati dal centrodestra all'elezione 2008 sono 174, se non ricordo male, e di questi 174 la maggioranza necessaria è 162. Pare che anche nel Senato i senatori che seguono la posizione dell'onorevole Fini siano di numero tale che la maggioranza viene meno. Allora, la questione è oggi: fine del PDL, e quindi bisogna immaginare qualcosa che vada oltre il predellino, è stata un'iniziativa sbagliata, non riuscita. Le interpretazioni si sprecano, io non sono un grande appassionato di letture personalistiche della politica, ma sulla stampa italiana oggi ne trovate per tutti i gusti. Ma la vera domanda, quella che poi tocca tutti i cittadini, anche quelli non appassionati alle beghe personalistiche sulle attese di leadership dell'onorevole Fini da tanti anni all'ombra di Berlusconi, e su come Berlusconi possa, con qualche suo colpo di appello popolare diretto, magari superare questa nuova crisi. Ma la questione di fondo è se oltre al PDL è finito anche il governo, perché in questo caso dobbiamo passare da una lunga fase in cui il governo ha mostrato inevitabili ed evidenti segni di difficoltà, un po' su tutti i settori, tranne quello del tempismo con cui il ministro Tremonti ha impedito di continuare a spendere di più, che poi è ciò che a questo governo riconosce l'Europa, ma per il resto in tutte le altre materie, a cominciare da quella delicatissima della giustizia, delle intercettazioni, il governo è andato incontro a evidenti paralisi crescenti, contraddizioni, cambi di linea d'opinione, cambi di sensibilità da parte dell'opinione pubblica, che ha visto il governo iniziare a cadere nei sondaggi, ed è di fronte a questo che, come è evidente, Berlusconi ha reagito. Quindi io non so dirvi se non un'opinione che mi tengo per me verso la fine, ma voglio chiedere e chiedo a colleghi che osservano la politica italiana dal loro punto di vista con maggior costanza e passione, malgrado tutto, di quanto faccio io, come ne sono disappassionato da parecchio tempo. Io preferisco numeri e problemi concreti, minoritariamente tentiamo di farlo anche ogni giorno, però qui la domanda se è finito il governo oltre che il PDL è una domanda che non potevamo eludere. Quindi sentiamo in questo inizio di trasmissione che cosa ci dicono innanzitutto Mario Secchi, che è il direttore del Tempo. Buongiorno direttore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. E oggi mi ha fatto un favore di cui devo essergli estremamente grato, sono grato a tutti e anche a Mario, però l'ospite che vi presento adesso lo inseguo da mesi ed è una persona per me alla quale sono legato da grande amicizia, perdonate se mi permetto di dire anche questa nota personale, da grande amicizia, grandissima stima, perché è così, da quando prima ancora che lo conobbi a Montecitorio tanti anni fa, non posso dire tantissimi perché sennò sembriamo due vecchioni, cioè Francesco Merlo, editore di Rivista della Repubblica. Grazie Francesco Merlo. Grazie a te, anch'io sono come te scanzonato, esatto. Senza più canzoni. Francesco, quindi. Io comincerei da te, se sei d'accordo. Fammi capire come la vedi tu, che ieri hai scritto, secondo me, un fantastico articolo che traeva spunto da una conferenza stampa, quella di Denis Verdini, una delle conferenze stampa, meno conferenze stampa che si siano mai viste nella storia della politica italiana, e come al solito, come usi tu la penna, intingendo e tagliando, per così dire, hai fatto un racconto, che secondo me era un racconto della fine di una parabola politica, perché una conferenza stampa, lo dico senza voler sembrare censore, come quella dei Verdini, a cui insorge Giuliano Ferrara per una giornalista di Repubblica che fa una domanda, ci si arriva quando evidentemente un tessuto, un ordito oramai lacerato, questo era evidente secondo me, quindi tu coglievi già questo elemento, ma per te è finito anche il governo, è finito il PDL, è la solita pantomima, mettici anche un po' di scetticismo siciliano come fai sempre tu. Guarda, non so dire se è finito il governo, perché non credo che finisca subito il governo, certo si apre una fase nuova perché Fini diventa un ex e gli ex sono in Italia qualche cosa di terribile nei rapporti con gli ex, perché per essere ex bisogna essere sempre in due, no? Diciamo che nell'exit c'è sempre una doppia inadeguatezza, no? E quindi non so che cosa, sicuramente si incancrenisce il rapporto, perché Circe trasformava gli ex amanti in porci, qualcun altro li ammazzava come Enrico VIII, altri, non so, Bocassa credo che le mangiasse le ex. Ora Berlusconi sicuramente vuole mangiare Fini, cioè sicuramente diventerà sempre più cattivo con lui e al contrario la stessa cosa farà Fini, perché nell'exit c'è sempre, come dire, l'exit è vicino all'incipit ed è vicino in maniera tale da illuminare e svelare l'intero rapporto e alla fine del gioco, quindi la fine del gioco rivela i giocatori e adesso partono questi due giocatori e si faranno del male e probabilmente faranno del male al Parlamento, perché trasferiscono una battaglia che stava dentro un partito, la trasferiscono in Parlamento, perché la richiesta di dimissioni da Presidente della Camera non può che infuocare il Parlamento. Contemporaneamente, se si guarda tutto questo, come? Se si guarda tutto questo con lo specchietto retrovisore, magari dello scetticismo di cui parlavi tu, e si apre naturalmente quello che volgarmente si chiama il mercato delle vacche, e il mercato delle vacche non deve tenere conto delle cifre, le cifre iniziali possono persino essere traditrici, perché se qualcuno vuole farsi comprare è chiaro che va a intrupparsi confini, no? Se io voglio farmi vendere, voglio farmi comprare, alzo il mio prezzo e quindi vado ad aumentare il numero di coloro che stanno lì, per tradirlo meglio, no? E questa è una scienza in Italia, una scienza antica, ed è evidente che in questo momento si sta facendo questo, non soltanto dentro il gruppo dei Finiani, ma probabilmente anche negli altri partiti di maggioranza. In questo la capacità corruttiva di Berlusconi è più grande di quella degli altri, perché Berlusconi è notoriamente ricco e quindi oltre che di cariche è anche ricco di denaro, per cui è probabile che la corruzione aumenta ed è una delle cose gravi di tutto questo sistema berlusconiano, che è vero che è al capolinea, perché qualunque cosa è comunque, anche se si prolunga questa agonia, il capolinea di un sistema è arrivato. Io devo dire la verità, da laico penso che l'idea che Fini possa essere il protagonista di una trasformazione che lui ha in mente da tanto tempo, di una trasformazione della destra verso una destra rigorosa dal punto di vista della destra, la destra che è fondata sulla legge, che è il contrario di quello che crede Berlusconi, perché Berlusconi invece la legge, per lui la legge esiste per violarla, mentre la destra è fondata sulla legge e sull'ordine, cioè questa legge e ordine collegati con la giustizia sociale, con i temi etici eccetera, mi sembra che nel programma che si va delineando di questo movimento, partito, speranza, illusione di fini, io che non sono uno che sta lì dentro eccetera, io dico che noi dobbiamo guardarla con simpatia e in qualche maniera pensare che se c'è dietro un progetto culturale di trasformazione finalmente della destra italiana verso una destra civile, che è quella berlusconiana, onestamente non lo è stata perché è condizionata dagli interessi del capo, e se si va verso questo bisognerebbe che noi tutti lo guardassimo con simpatia. E a proposito di legge e ordine, mentre noi stiamo andando in onda, vanno in onda le immagini dell'arrivo a Ciampino dei due caduti dell'Afghanistan, del caporal maggiore Pier Davide De Cillis del 21esimo reggimento del Genio e del maresciallo Mauro Gigli che apparteneva al 32esimo reggimento Genio di Torino. Io conoscevo molto bene il maresciallo Mauro Gigli e devo dire che mi sento quasi in colpa a parlare di queste robe qui, mentre lui torna, è caduto eroicamente per impedire che il capitano Federica Luciani di 29 anni, che è rimasta ferita, portasse i segni di questo tipo di attacchi che i talebani fanno con degli ordigni riservati alla popolazione. E quindi io voglio rendere loro onore, perché forse queste cose un giornalista non le dovrebbe fare con la voce che si incrina, però perdonatemi, era un amico da molto tempo e penso che abbia fatto la fine per la quale si è addestrato, e non credo che oggi potrebbe dire nient'altro, come ha sempre detto ai suoi familiari e a noi tutti: ma se capita, sono contento se capita, facendo quello per cui è utile che io mi esponga, cioè esporre la propria vita per salvare quella degli altri. C'è tanta gente così che porta la divisa nel nostro paese, io penso che noi dobbiamo tutti rendergli onore e merito, perché è facile dirlo, ma sacrificare la propria vita in questo modo è una cosa che secondo me va molto apprezzata. Perdonate questa piccola parentesi. Mario Secchi, chiedo invece una cosa che mi ha molto colpito, perché poi nel giornalismo, diciamo, ispirato dichiaratamente vicino alle posizioni del centrodestra, a volte esplicitamente sostenitore, come ha fatto ieri il comune amico Minzolini col suo editoriale al TG1, che ha naturalmente ancora una volta riscaldato le polemiche, ha provocato l'intervento del presidente della Rai Garimberti, però oggi, Mario, se guardiamo la forbice dei diversi giornali del centrodestra, tu ci dici adesso come hai aperto e come hai commentato, però la cosa che colpisce e che è anche confermata non solo dall'apertura del giornale di Vittorio Feltri ma anche dall'intervista che oggi Vittorio Feltri ha dato alla Stampa, è che il giornale, che pure molto ha spinto, ha contribuito in questi ultimi giorni tirando fuori la storia della casa di Monte Carlo che dal patrimonio di MSI Alleanza Nazionale finisce poi in una maniera, diciamo, discutibile quantomeno su donata, ecco, a familiari dell'onorevole Fini e così via, quindi il giornale ha dato molto una mano alla radicalizzazione, allo scontro, invocando la testa di Fini. Eppure oggi, pur sotto un titolo colpo di grazia, Vittorio Feltri, che non ha potuto, gli avevamo chiesto di intervenire, interviene dicendo trasecoliamo e vediamo che cosa succede. Quindi non è che sia molto soddisfatto. Nell'intervista alla Stampa Vittorio Feltri dice: beh, insomma, se qualcuno pensa che io davvero poi sia felice nel vedere questo centrodestra che non riesce mai una volta a fare quello per cui ha preso i voti degli elettori, guardate, io non sono felice. Poi ho proposto la cura radicale, ma perché è un male molto estremo. Allora, Feltri la pensa così. Il titolo di Libero è solo descrittivo, fatti più in là con un editoriale di... Però insomma è difficile vedere, anche nei giornali vicini al centrodestra, come dire, un sospiro di sollievo dicendo: vabbè, non si potrà che andare meglio perché tutti i problemi sono risolti. E quindi? E quindi io ho titolato "Qui finisce l'avventura", che ha un doppio senso. Qui finisce l'avventura dell'unione di Fini e Berlusconi nel PDL, ma qui finisce l'avventura del PDL come l'abbiamo immaginato fino a ieri, perché altrimenti saremmo degli ipocriti e non faremmo un buon mestiere a raccontarla diversa, e rischia di finire anche l'avventura del governo. Cioè, se lei mi dice se chi è contento che Fini sia andato via, dico no. Penso anche che questo divorzio sia arrivato nella peggiore delle condizioni, cioè siano stati compiuti errori colossali da parte di tutti. Berlusconi ha aspettato troppo a chiarire questa vicenda ed è arrivato quindi in maniera rutilante da bulldozer alla decisione. Fini ha lasciato fare un po' troppo i suoi, vedi alla voce qualche uscita di granate e così via, e gli è scappato di mano quello che poteva essere, forse è, il suo disegno, progetto politico finale. E, insomma, sono arrivati alla rottura dei patti e anche dei piatti, come suol dirsi. E adesso la situazione, secondo me, è assai complicata, perché la maggioranza è in bilico. Perché se quelli sono i numeri, alla Camera si può girare quanto si vuole, ma significa che il governo a ogni voto rischia di andare sotto. Al Senato, se quelli sono i numeri, il governo e quindi la maggioranza sono più saldi, ma insomma io non stapperei nessuna bottiglia di champagne, anzi mi preoccuperei subito di fare due o tre cose. La prima, rinsaldare i gruppi da parte ovviamente dei berlusconiani. La seconda, giocare di fantasia e vedere se si può allargare la maggioranza. La terza, cominciare a pensare a una sorta di crisi formale. E la quarta, pensare all'apertura della crisi a fare un rimpasto. Perché è questo? L'apertura di una crisi, probabilmente, se le cose precipitano, sarà necessaria per consentire ad altri gruppi politici di entrare eventualmente nel governo. In caso contrario, se non succede tutto questo, noi intanto la legislatura finisce anticipatamente, perché così il governo non va avanti. Possiamo dire che questa la possiamo considerare quasi una cosa, non dico scontata, tutto può avvenire, ma è difficile oramai immaginare che questa legislatura possa arrivare alla fine dopo un atto di questo così genere. Così non arriva alla fine. No, cioè, voglio dire, chi si occupa di politica e la guarda tutti i giorni e lo fa in maniera appassionata ma nello stesso tempo realistica, non può non vedere che la legislatura così non va avanti. Voglio dire, con 100 deputati, con una maggioranza di 100 deputati davanti, non sono riusciti a far passare i provvedimenti importanti. Cioè, noi qua stiamo ancora a discutere se riescono a far passare le intercettazioni o no, e tutto va ovviamente a settembre. La riforma della giustizia non è stata fatta. Importanti riforme economiche che il governo voleva fare, in realtà le sta facendo Marchionne. Cioè, Giannino, siamo a un punto tale che è inutile mettersi lì a fare il tifo, le tifoserie contrapposte, no? Evviva ha cacciato Fini, no? Evviva un accidente, adesso si crea un problema grande come una casa. È buona l'idea di andare allo showdown, ma bisognava farla prima e bisognava arrivare, se proprio si voleva arrivare a questo punto, a un cosiddetto divorzio ragionato. Ecco, secondo la parabola del divorzio, perché ho visto che anche Berlusconi ieri l'ha evocata, sì, dicendo mi sono levato un dente, una cosa dallo stomaco, anzi un peso dallo stomaco, come ho fatto con Veronica. Allora, domanda per Francesco Merlo, ma questa specie di il divorzio, quando ci si arriva così male e continuano a volare i piatti, fa peggio di una protratta convivenza alla quale ancora non si è riusciti a trovare una soluzione di tipo radicale, o no? O è meglio a un certo punto, anche in politica, come capita nella vita può capitare che uno non ce la fa più e dice sai che c'è, ma esci dalla mia vita. Poi di solito si pagano prezzi rovinosi, questa è l'esperienza mia e dei molti miei amici, tra cui non sei tu per tua fortuna, ma che Berlusconi invece che cosa ha imparato anche secondo te dalla sua vita privata? Ha detto Fini oramai sei come, non lo so, a me ha colpito l'immagine, perché io tendo a separare la vita privata dalla politica, però sbaglio ovviamente, tu che pensi? Io penso che quello che dicevo all'inizio, cioè a proposito degli ex, non c'è niente da fare, quando ci si lascia c'è un arretrato di rapporti, di contrasti personali risolti, cioè si sfascia la rete delle vecchie amicizie, anche delle solidarietà in genere anche economiche, no? E poi da ex si diventa anti, si cambia casacca, si diventa fanatici, più feroci contro quella parte di se stesso che si è abbandonato, no? I convertiti. E questa roba qui è una roba che sicuramente sta per cominciare, e io, a differenza di quello che diceva il mio amico Mario Sechi, io penso che sia un bene per il paese, perché siamo alla fine di un sistema che è il sistema Berlusconi, è un sistema terribile per l'Italia, non dobbiamo veramente dire grazie a niente in quello che è accaduto. Cioè, nel sistema Berlusconi, in questo sfaldamento c'è la fine di un sistema di potere terribile che è fondato sull'interesse personale, che è fondato sulla corruzione, sulle cricche. Mi dispiace parlare così da appassionato, pur essendo scanzonato, però è incredibile quello che accade, cioè che i probiviri si occupino di Fini e non di Cosentino, cioè che si permetta che il coordinatore di un partito traffichi con tangenti, soldi di bancarottieri, in incontri che sono contemporaneamente appartati ma chiassosi, e che si parli, come dimostrano le intercettazioni e come si dimostra anche l'importanza che hanno le intercettazioni in Italia, con questo linguaggio che è un linguaggio da gabinetto, che tutto questo venga fuori, con tutto quello che poi c'è stato nella protezione civile, le case regalate, cioè è un abusi e corruzione di Stato che alla fine del secolo, alla fine della sua parabola, mostra veramente, viene fuori come un miasma, cioè questa fine del berlusconismo è una fine che prima accade e meglio è. Per cui se il divorzio serve a questo, ben venga il divorzio, ma se nel divorzio c'è anche la formazione, il desiderio, il sogno, l'illusione di fondare una destra che sia fondata sull'interesse sociale, su dei programmi politici, adesso anche su un'idea di amministrazione dello Stato che può non essere la mia, la nostra, ma che comunque è un'idea che c'è nel mondo e che nel mondo ha una sua posizione anche culturale, storica, i suoi libri alle spalle, le biblioteche, eccetera. Se c'è tutto questo, è che ben venga questo divorzio. Quando separarsi significa liberarsi, ebbene, penso che sia meglio. E allora il problema che poi dal quale ripartiamo invece dopo la pubblicità è quello, e lo chiederò a sé, che poi chiederò anche a me, lo chiederò anche a un altro ospite che si aggiunge, è quello di tanti elettori del centrodestra, almeno io ne conosco tanti, di persone che sono le prime a concedere che Berlusconi da sempre è fuori dalle righe, Berlusconi è eccessivo, è antipolitico, non fa dell'understatement, della misura nella comunicazione, la cifra della sua guida politica e della guida delle istituzioni. Berlusconi è Berlusconi, è fuori per certi versi da ogni tipo di protocollo, programmaticamente fuori, orgogliosamente fuori, ti fa le corna alle fotografie, gli altri statisti tendono a fare 5 metri indietro quando lui vuole dargli le pacche, però tanti italiani, tutto questo lo riconoscono, vorrebbero quella destra più europea, più legalitaria, più composta, più colta, più misurata, di cui ci parla Francesco Merlo, però dicono la verità vera è che in questo paese, se non c'era Berlusconi da 16 anni, che ogni volta si inventa i predellini e i predelloni e gli appelli alla pancia e a qualcos'altro anche più basso della pancia, la verità è che noi eravamo travolti dai governi di centrosinistra, tecnici, dalla sinistra che non era stata toccata dalle indagini. Questo la stragrande maggioranza dell'elettorato del centrodestra lo riconosce e dice, però, proprio perché con tutti i suoi difetti Berlusconi è l'unico capace poi di inventarsi voti e di reggere nei confronti della sinistra e di metterla sotto tutte le volte che ci hanno messo sotto, Fini, che dovrebbe saperlo bene, a questo punto è un traditore, perché la maggior parte delle persone che io conosco, tanti pensano è finita dopo 16 anni, io devo dire ragionevolmente, sono un po' tra quelli, ma lo dirò alla fine, ma tanti altri dicono, con tutti i difetti di questo Berlusconi, di quelli intorno a lui, di gente scelta ai vertici di incarichi senza avere esperienza né competenza né misura, perché poi la misura è la questione fondamentale, ciò malgrado Fini doveva sapere che bisogna aspettare, perché l'unica maniera è di andare avanti, perché Berlusconi è così. Eccoci tornati in studio, avevamo, dopo aver ascoltato le considerazioni di Mario Secchi e di Francesco Merli, eravamo arrivati a un punto in cui, tratteggiato il troppo tempo trascorso, le difficoltà sempre più evidenti di questo lungo periodo berlusconiano che fa i conti con se stesso e con i propri difetti, con le proprie incapacità, con i propri limiti ed espelle un cofondatore, i rischi per la durata del governo, per la permanenza del governo, ma anche al fatto che molti elettori del centrodestra continuano a pensare, pur avendo abbassato il gradimento nei confronti del Premier, nei confronti del governo, perché è evidente questo, continuano a pensare: sì, è vero, Berlusconi avrà tutti questi difetti, intorno a Berlusconi ci sono personaggi molto discutibili che non sanno tenere stile passo rispetto a quello di una qualunque destra europea. Detto questo, però, Berlusconi è quello che ci fa reggere e vincere nei confronti della sinistra, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi Fini, nel tirare la corda in questo modo, fino al punto da far perdere la pazienza al capo, è un traditore, perché questa roba nella pancia di un po' di elettori di centrodestra, un bel po' di elettori di centrodestra, che poi erano quelli che leggevano e premiavano il giornale diretto da Feltri, che chiedevano appunto di arrivare a Rede Razione, tranne che poi oggi ci si arriva e abbiamo scoperto tutti questi giornali si grattano un po' perplessi la testa dicendo oibò, e adesso che succede se qua si va sotto. L'accusa di essere traditore a Fini è un'accusa che ha diritto di cittadinanza in politica, innanzitutto quella del tradimento, per cui si finisce come al divorzio tra moglie e marito, parabola evocata, lo abbiamo visto, da Berlusconi proprio ieri. Ricominciamo da questa domanda e però poniamola su questo taglio, ma in realtà su cosa pensa in generale, se sia finito il governo oltre che il PDL e così via, a Gad Lern, che sono molto felice che sia giunto anche lui oggi ai nostri microfoni. Grazie Gad, come la pensi di questo divorzio? Fine del partito, del buongiorno. Governo, di tutto, buongiorno. Spero di non deluderti, perché mi vedo molto poco nella veste di gastroenterologo, studioso della pancia. Già detesto questa metafora con la quale giustifichiamo le peggiori degenerazioni del nostro linguaggio politico, ma poi applicata all'elettore di centrodestra non intendo. Io non so perché in tanti elettori del centrodestra provino l'istinto di additare Fini come un traditore. So che questo probabilmente fa parte di un rapporto fideistico col leader. Carismatico, certo. Tu hai deciso che quel leader è salvifico, appunto, come tu descrivevi prima, è l'unico con il quale possiamo farcela, senza di lui saremo sconfitti, tutto dipende dal suo benessere. A quel punto, certo, chiunque lo intralci viene accusato di traditore, ma siamo diciamo a un livello pre-politico, sì. Con questo, siamo a un livello di istinti, comportamenti disdicevoli che dentro una dialettica democratica. E allora, fuori dalla gastroenterologia, invece andiamo alla meteorologia, come la vedi? La meteorologia, ecco. Io vedo un errore proprio di quelli esiziali di Berlusconi, un errore di quelli che lo perdono. Lui non è Bossi. Bossi in passato ha potuto, in fasi tra l'altro nascenti del suo movimento, liberarsi con brutalità dei dissidenti. Caduta la linea? È caduta la linea. E mentre tentiamo di ripristinare la linea, perché dice lui non è Bossi, quindi Bossi poteva far falò dei dissidenti e non pagare un prezzo, vediamo poi quale sarà il seguito del ragionamento. Ma intanto io giro la domanda del traditore a questo punto a Mario Secchi, che a questo punto diventa l'unico vero interprete, almeno in onda nella trasmissione di oggi, della fetta di lettori, ascoltatori ed elettori del centrodestra che dicono traditore. Io sto ricevendo, persino avendo un pubblico che è molto bipartisan, e ci sono bei pezzi di sinistra nel mio pubblico, infatti talvolta mi criticano, io sto ricevendo una bella raffica anche oggi, dice Fini traditore. Questo. Ma dunque, la categoria del tradimento fa parte di quelle categorie politiche eterne, quindi noi non ci dobbiamo stupire che questo avvenga. Il rapporto tra Berlusconi e i suoi elettori, e tu lo sai meglio di me, è appunto fondato sul carisma. Addirittura Berlusconi lo fonda sul fatto che tra lui e il corpo elettorale non c'è mediazione, cioè non c'è il partito. I problemi del PDL sono esattamente originati da questo rapporto diretto, che è anche un pregio, se vogliamo, del leader con il suo elettorato. Detto questo, però, l'assenza di un corpo intermedio, cioè del partito che media, nel caso di Fini ha creato il patatrac che sappiamo. Quindi, da un lato l'elettore vede le mosse fatte da Fini negli ultimi mesi come un tradimento del patto elettorale e del programma sottoscritto con il PDL. Dall'altro però, e qui ha ragione Gad, siamo in una fase ancora prepolitica, se restiamo a questo punto. Io insisto, cioè arrivare al divorzio in queste condizioni è estremamente pericoloso per la sopravvivenza dell'esecutivo. Aspetta, ti interrompo perché facciamo finire il ragionamento a Gardella, gli è caduta la linea mentre lui stava dicendo: non è come Bossi, Berlusconi, che può cacciare dissidenti, e poi come proseguivi? Ma è molto semplice la prosecuzione, è un pronostico. Io credo che il calcio al Berlusconi e al governo arriverà precisamente da Bossi. Un Bossi che sentisse come eccessivamente pericoloso per il suo partito la coabitazione con un PDL pieno di scandali e litigi, un Bossi che vedesse un poco... Pronto? Di un Bossi che vedesse. Scusatemi, temevo che fosse caduta. No, abbiamo anche sentito un fantastico un porco. Cane, non ti preoccupare, capita. Diciamo, dai. Sì, me la sono presa con l'animale domestico che amo tantissimo. Allora, tu questa cosa della Lega che fa cadere, in realtà l'hai scritta già da un po', perché... Ma sì, ecco. Io vedo vedo tali difficoltà nel mondo leghista. Vi parlo da Jesolo, per questo prende male il telefono. Sindaco leghista, ieri sera una lista civica che è appena confluita all'interno della Lega. Con ma lui temo che col pontiradio di Telecom c'entri poco, però. Ecco. Sì, c'entra poco, no, ma c'entra con il mio ragionamento, nel senso che vedo questo mondo talmente percorso da un malessere. Il federalismo è una roba fenice, non capiamo bene che cosa ci porta. Vediamo un Berlusconi che difende Brancher, Cosentino, che difende Verdini, e invece caccia Briguglio, Bocchino e Granata, che non sappiamo bene che cosa hanno fatto. Le divisioni interne al PDL fanno sì che in tutto il nord Italia, e non parlo del sud, non si sa bene con chi discutere, con chi stringere accordi, perché gli interlocutori sono in rissa l'uno con l'altro. Io di fronte a un Berlusconi che barcolla sono quasi certo che sarà Bossi, per istinto di sopravvivenza, a dirgli no, basta, io mi separo, anche confidando nel fatto che dalle ceneri delle PDL la Lega nel nord Italia avrà di che mangiare parecchio. Ecco, questo è un tema, perché le spoglie politiche, come si vede di elezione in elezione, sono spoglie politiche che fanno gola, e quello che è successo, chiamava da Jesolo Gard Lerner, quello che è successo in Veneto, dei voti ex Forza Italia PDL andati alla Lega alle ultime regionali, è un processo sul quale invito a riflettere. Secondo me Gard Lerner coglie un punto, il punto non è solo nel PDL, il punto è quale sia il limite oltre al quale per la Lega, che ha nel federalismo, nell'attuazione del federalismo, il punto fondamentale della stessa sua collaborazione col PDL, così come si è articolato da parte di Berlusconi, e quello è il punto, da una parte forte, ha consentito a Berlusconi di tenere la Lega dentro, a fianco, alleata, leale, fedele, fino a questo momento. Però attenzione, perché siamo al punto decisivo della delega di cui spesso ci siamo occupati in queste settimane, con i numeri di un federalismo ancora tutto da vedere per i costi standard, molto più da vedere ancora di quanto abbia promesso l'attuazione apparentemente scrupolosa dei tempi delle deleghe, al 30 giugno, al 30 luglio, sui costi standard per la sanità delle regioni e sui costi standard da coprire per province e comuni. Io vi invito a riflettere, tutti voi in ascolto, se l'elettore leghista e se lo Stato Maggiore della Lega può considerare che i due anni di fronte, che questa legislatura è molto difficile immaginare duri a questo punto, porti a casa i numeri concreti che ancora mancano, oppure se a questo punto fare stato di una situazione in cui per l'ennesima volta, sia pure di fronte a un ministro Tremonti che come un treno va avanti senza però il supporto del PDL su questo, che ha altro per la testa, per rispettare l'impegno con la Lega, alla Lega non convenga dire: signori, per l'ennesima volta voi non ci mettete in condizione di portare a casa quello che è per noi la cosa fondamentale, e allora vuol dire che, come ha detto Bossi in questi ultimi giorni, finirà con una separazione. Bossi parlava, secondo voi, solo della separazione tra Berlusconi e Fini? Sicuramente parlava di quella, ma forse non solo di quella. Sentiamo rapidamente qualche ascoltatore come la pensa, cominciando da Massimo da Napoli. Prego, Massimo. C'è Massimo? Non c'è Massimo. Oggi con i telefoni è peggio che le montagne russe. Si vede che anche gli operatori telefonici hanno un elevato rateo di personale che va in ferie. Sentiamo Osvaldo dalla provincia di Treviso. Siamo più fortunati con Osvaldo. Sì, penso proprio di sì, ecco. Me lo auguro. Buongiorno a lei, buongiorno. Giannino, buongiorno ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Cioè, io francamente sono contento che sia finita la manfrina con Fini. Io sono un elettore di destra, a suo tempo ho votato per AN, ora voto per L. E francamente io sto vedendo tutti i giri di valzer che da questi anni, da diversi anni a questa parte, il buon Fini sta facendo, anche in maniera piuttosto, mi si perdona il termine, sporca. Io le posso dire una cosa, come presidente della Camera io rimpiango tutti i notti, che si è comportato sempre come un signore. Il che è tutto a dire. Quindi, quindi Berlusconi ha fatto solo bene. Guardi, Bertinotti è una persona, tra l'altro, mi è pure simpatica, pur non pensandola come lui, ma si è comportato sempre come un signore al di sopra delle parti. Questo non ha, per in due anni ha fatto solo politica, bassa politica, oserei dire una cosa vergognosa. Grazie Osvaldo, opinione bene. Chiara. Quindi per te Berlusconi, per lei Berlusconi ha fatto bene, anzi troppo aspettato. Massimo da Napoli, come la pensa? Buongiorno, volevo dare un elemento alla domanda iniziale sua, se sì. Il PDL è stata una cosa buona. Il PDL secondo me nasce su un falso costitutivo, nel senso che non ci sono due fondatori, Fini e Berlusconi. Ma Massimo, le faccio osservare che spesso i falsi costitutivi sono atti fondamentali della politica, non solo in Italia, non solo in Italia, cioè i finti telegrammi per scatenare la guerra e così via. Cioè. Bravissimo, soprattutto in Italia. La PL nasce con un azionista di maggioranza e uno di minoranza. L'azionista di maggioranza si chiama Silvio Berlusconi, non sto qui a ricordare, e quindi che cosa succede? Che Fini, a differenza di Bossi e di Casini, uno svincolato, un altro che ha detto non posso rinunciare alla mia azione strettamente legata sul territorio, Fini ha subito la chiusura, anzi la nascita del Partito Unico, la successiva chiusura di Alleanza Nazionale, poi è stato tumulato nella presidenza della Camera, che è un ruolo istituzionale ingessato, e ovviamente lui scantona, non ce la fa più, oggi interviene su tutto e tra poco dirà pure che le strisce nere della maglia del Milan sono troppo larghe, e questo fa parte di un dibattito all'interno della politica. Questa è, e ci avrà un altro problema interno, perché le cose che ha accusato Silvio Berlusconi all'interno della casa del PDL sono le cose che gli accusavano i suoi vecchi accusatori, nemici, che poi l'hanno lasciato. Ricordo Publio Fiori, Fisichella, ricordo anche Storace, ricordo la Santanchè. Hanno lasciato Gianfranco Fini con le motivazioni che oggi il gruppo di Gianfranco Fini muove politicamente, legittimamente, non lo so politicamente fin dove, hanno senso nei confronti del cavaliere Silvio Berlusconi, cofondatore falso secondo me, ma unico fondatore del Bredellino della, e unico del fondatore. PDL. Allora, qui è una lunga storia di mogli lasciate e di amanti che poi ti ritradiscono, insomma, questa storia di questo centrodestra travagliato che ha nel rapporto carismatico personale leaderistico con Berlusconi, in realtà alla fine della fiera il suo vero e unico collante, tanto è vero che quando per le altre figure collaterali viene meno questa presa e questo principio imperativo e imperatorio, ecco che sorgono inevitabilmente i problemi, come in tutti i partiti leaderistici dove hai voglia di dire regole, democrazia, si vota. Nei partiti leaderistici l'unico voto è che è consentito ampiamente di essere d'accordo con il capo, perché chi non è d'accordo non è più nel partito, questa è una vecchia regola. Allora, Paolo da Verona, come la pensa? Buongiorno a tutti. Dica. Niente, consideravo un po' l'intervento di Gad Lerner e ritengo anch'io che la Lega e Bossi personalmente possono ritenere di uscire dalla maggioranza, se non subito in un breve tempo. E leggevo questo tipo di evento nelle prime tensioni che stanno maturando nell'ambito del Ministero dell'Agricoltura, nelle famose quote latte che vedono già in contrapposizione parte della Lega con il Ministro Galan. Queste tensioni che, al di là del loro fondamento, potrebbero comunque essere un po' l'apripista delle tensioni e quindi portare magari a uno strappo che superi questo motivo appunto delle quote latte, per trovare un fondamento magari più ampio e uscire dall'esecutivo, insomma, e ognuno per la propria strada. Ecco, l'impressione è una chiave di lettura che mi sembrava di cogliere in questo periodo. Ecco. Grazie, grazie anche a te. Sentiamo un ultimo rapidissimo, Scecchi da Milano. Sì, Scecchi da Milano. Scecchi da Milano, prego. Sì, buongiorno. Sì. Allora, per me è giusto così che si siano separati, perché io sono un elettore di Gianfranco Fini, però ultimamente mi ha deluso moltissimo, perché diciamo la vera opposizione del governo della destra qui in Italia da 2 anni a questa parte è stato sempre Gianfranco Fini. Sì. Puntualmente dopo le conferenze stampa dei vari del centrodestra arrivava subito la replica, la battuta di Gianfranco Fini, un po' punzecchiante, un po' ironica così, e diciamo lui ha giocato sporco in questi 2 anni. Quindi Secchi, che io non riesco a attribuire, mi perdoni, ha un accento tra il genovese e di dove in realtà? La deludo, sono albanese. No, sono, e perché mi delude? Sono due grandi radici, e quindi io non riuscivo a capire, no, perché il nome è un po' strano, è la mia, è una banale curiosità, mi scusi. Comunque elettore di Fini che dice Fini ha esagerato. Allora, due domande finali, Secchi, per un minuto a testa, per Francesco Merlo e per Mario Secchi. Francesco, tu dicevi in realtà questo lungo declino, prima finisce meglio è, però Berlusconi ci ha aiutato, ci ha abituato a grandi colpi di reni, a imprevisti eccetera eccetera, se ora con qualche nuova mantina il governo va comunque, lui ha secondo te la possibilità ancora nel suo rapporto con questa parte d'Italia, vista anche la salute della centrosinistra che non mi sembra molto buona, di sorprenderci per l'ennesima volta e ridarsi un altro capitolo nuovo? Io non credo, devo dire la verità, io penso che il disfacimento del sistema Berlusconi apre a destra, lasciamo stare la sinistra che è un'altra catastrofe nazionale su cui forse bisognerebbe fare un'altra trasmissione, apre a destra questo grande problema che è la Lega, e quindi anche da questo punto di vista l'idea di una destra che abbia al suo centro l'unità nazionale come Fini e come la destra di Fini, la destra che in qualche adesso si stacca dalla PDL e non so che cosa andrà a formare, l'unità nazionale è il grande tema, la Lega è il grande tema è, siamo in un momento di anniversari risorgimentali, e quindi questa idea che in qualche maniera si debba rimanere uniti, l'Italia, l'idea della patria, la patria nell'acqua, nel monte, nelle partite di calcio, in una ricetta gastronomica e non soltanto nei danè e nell'idea di processare Roma, eccetera. Cioè questa sottile disfacimento del paese che la Lega persegue è il grande problema della destra italiana. O si starà con Fini o si starà con Bossi. O si sta per tenere l'Italia unita o si sta per dividerla. Questo è secondo me il grande tema della destra. Bene, bene. Mi pare ne hai messa abbastanza di carne al fuoco per dire se ci può stupire rispetto a questi problemi, che sono problemi di fondo. Io per esempio sono uno di quelli che dice che si può e bisogna ragionare, bisogna smontare troppe tasse, bisogna passarle dal basso, fare il federalismo vero. Non penso davvero che il sistema politico possa reggere alla radicalità di quella cura. Questo io sono d'accordo con te, perché l'eccesso di intervenzione politica dovunque, c'è a nord come al sud, sia pur con risultati diversi di efficienza, è qualche cosa così commisto e proprio di questo sistema della rappresentanza, che io stesso, che pure sono minoritario nel credere in questa ricetta di maggiore efficienza economica e di maggior leggerezza dello Stato per farlo concentrare su poi su chi davvero non è tutelato e non ha, perché il nostro welfare poi alla fine quelli lascia scoperti, io stesso sono d'accordo con te, non la vedo poi compatibile. Credo che per questo poi sono annunci che da 16 anni non si traducono in programmi, in risultati concreti. Facile prendere i voti su questo, la difficoltà è poi prendere il piccone e farlo davvero, perché significa che ti bruciano, ti mandano via, perché non si riesce a cambiare niente mai in questo paese, tanto le corporazioni a destra come a sinistra sono radicate nella rappresentanza politica. Mario Secchi, anche a te la domanda, ci può stupire se in qualche maniera il governo regge imbarcando qualcuno dal gruppo misti di centristi e così via, oppure Berlusconi dice dammi il voto, le elezioni? Credo che Napolitano farà l'impossibile per non darglielo. Ma io il voto lo vedo veramente difficile, perché tu Oscar sei abituato a guardare i numeri, eppure io aggiungo che sono abituato anche a leggere i report che girano nelle istituzioni finanziarie, e quelli di stampo anglosassone ci mettono senza pietà in quello che loro definiscono il Club Med, insieme a Grecia, Portogallo, Spagna, cioè tutti i paesi che hanno grossi problemi col debito pubblico, E quindi noi dobbiamo stare attentissimi a questi terminali della finanza. La domanda che ci dobbiamo porre è: il Paese può permettersi altri 6, 7, 8 mesi, perché poi di questo si tratta, di campagna elettorale, di vacatio di potere, perché il governo a quel punto cosa farebbe? L'ordinaria amministrazione? Io penso di no. Credo che Berlusconi abbia il dovere, dopo aver deciso questa mossa radicale, di trovare una soluzione per dare stabilità alla maggioranza e al governo. E quindi rimpasto e sui gruppi nuovi lavorare, come dicevi prima. Rimpasto, lavoro sui gruppi, eccetera. Le elezioni sono da escludere in questo scenario. Sarebbero un problema serissimo per il Paese. Molto bene, molto bene. Io ringrazio tutti i nostri ospiti oggi, non più ospiti critici che no, ma è giusto così, perché qui c'è una storia che va al termine, ci sono 16 anni, io ve lo sottolineo, di promesse non mantenute. Chi prende promesse elettorali e voti ogni volta promettendo una cosa che non è in grado di mantenere, alla fine potrà sembrare il maggior leader del mondo, ma diventa un problema, non più la soluzione, come il problema è lo Stato e non è mai la soluzione nel nostro paese. La mia maniera di onorare certi valori oggi è quella di ripetere: viva il maresciallo Mauro Gigli, vittima in Afghanistan per salvare colleghi che portavano la stessa divisa, e viva il caporal maggiore Pier Davide De Cillis, morto anche lui. E io dico personalmente al figlio del maresciallo Mauro Gigli, Gian Mauro, 19 anni, che può essere molto fiero del padre, perché con quella divisa e con questa vita e questa morte rende imperituri certi valori, per chi ci crede. Sono i valori veri di saper dividere con chi porta una divisa a fianco, un'idea di paese, per tutti, anche per chi quella divisa non la porta, fino al punto di dire: preferisco morire io per non far morire il capitano che ho a fianco.